Giuseppe Mannino, buongiorno. Buongiorno. Lei può aiutarci come tecnico? Lei ha avuto per tanto tempo un negozio di animali esotici, o sbaglio? Sì, ho avuto un negozio di animali esotici e comunque io personalmente ne ho usufruito di animali esotici usati a modo di animali da compagnia. Quali erano gli animali più richiesti al suo negozio, quelli che voleva più la gente? Ma dunque, sicuramente... parlando di animali esotici che coltivano molto, diciamo i sauri, i draghi barbuti, erano quelli che vendevo di più. Il drago barbuto, si immagini un'iguana di 30-40 centimetri, quindi molto più gestibile, e onnivora, che si può tenere in teca, essendo di 30-40 centimetri, non gli fa un metro e mezzo di teca in salotto o in camera, ce la mette come dentro, pesci rossi. Esattamente. E non cammina mai, non si sgranchisce mai? Bella domanda, io le dico, insomma, c'è un motivo se non ho più il negozio e c'è un motivo se non ho più un solo animale esotico in casa. Non ne poteva più rivedere questa barbarie sui poveri animali esotici? No, ma io anche, insomma, i miei sensi di colpa, ma per fortuna a un certo punto... Ecco, ma com'è l'importazione di iguane barbute? Chi è che le vende? Dove si vanno a comprare? Dai cinesi? Non ho idea, capito? Fortunatamente il grosso adesso di quello che troviamo qui in commercio in Italia è nato in cattività. Quindi non viene prelevato dal suo ambiente naturale. Quindi le allevano qua in Italia? Sì, i draghi barbuti per esempio vengono tutti dall'Italia o comunque da allevamenti in Europa. Ma dove li allevano in Italia i draghi barbuti? Io non ho mai visto un allevamento di drago barbuto in Italia. Qual è la zona d'Italia dove si allevano? Ma guardi, cioè, lo sa. Ovunque, qui a Roma stesso ci saranno una quantità di privati che allevano draghi barbuti che nemmeno glielo so dire. Ma è un'attività legale, scusi se entro nei particolari. Sì, è un'attività legale e anche semplice da affrontare nella piena legalità, perché non è una specie protetta, a differenza per esempio dell'iguana.